Non ho capito che cosa dicono, si chiama Tour de France, un altro brano che ci ha chiesto Yak. Ho perso però le parole di Kraftwerk in questo pezzo. Beh, mi sembrava quasi solo musicale, o forse abbiamo chiacchierato cose, e basta noi dei cazzi nostri, proprio, ma neanche di cosa parlare adesso nell'ultimo quarto d'ora, proprio dei cazzi nostri, va bene anche questo, ci sta.